Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Ah, t'ho beccato, eh? Pora nonna. Eh? Pora nonna. Ma che sta a dire? È morta stanotte, è morta. Guarda, lascia perdere, nonna, morta di mortacci. Tu con me non attacca. Buona, Mandrà, è morta per davvero. Lo senti? È morta. Pora nonna, la stanno a pregare. Non mi fido, voglio vedere. Pora nonna, è andata lassù, mi ha lasciato. Anche sti signori si sono resi conto che non era il caso davanti alla disgrazia. Erano venuti perché ci abbiamo dei conti in sospeso. Ma non ci sono debiti che tengono. Quando si paga il debito al signore. Avomà, c'hai 10 giorni di tempo. Grazie al vostro buon cuore. Erventresca. Mandraghe, piacere. Belli capelli. Coraggio, Mandraghe. E ruscio. Mandraghe. Gira una voce non confermata che Tsipras, il leader della Grecia, sia un affezionato cultore di quelle sette romane che passano le loro serate a guardare e riguardare Febbre da cavallo, e lì abbia preso la maniera per cercare di dilatare, diluire, eludere il debito che ha con il resto del mondo. A parte la facezia, e al di là della spinosa e difficile questione greca su cui stanno tutti dibattendo, e in particolar modo ne dibatte con somma perizia una radio come questa, specializzata comunque in lettori di tipo economico, una delle voci che più girano nel nostro paese in questi ultimi anni, e in particolare in queste ultimissime settimane, nessuno paga più. Ieri alla fila al supermercato degli avvocati, perché il supermercato dove vado io è vicino a Piazzale Clodio, cittadella della giustizia, si lamentava: non c'è più rispetto per gli avvocati, nessuno paga più. Ma la stessa cosa la sento dire ai commercialisti, la sento dire a qualsiasi categoria professionale, la sento dire anche alla persona che la mattina fetta la mortadella e la mette dentro la pizza bianca: nessuno paga più. Siamo in un paese in cui pagare è diventata un'ipotesi, nessuno paga, le imprese falliscono, i professionisti si impiccano proprio perché nessuno paga più i debiti. Pagare, onorare un debito è diventata una maniera di osservare dei codici di comportamento che sembrano appartenere a un passato molto remoto, e quindi questa mattina vi spieghiamo quali sono le maniere per non pagare i propri debiti. Quello che abbiamo sentito è il classico espediente della nonna schiattata. Giuseppe Sansonna, buongiorno. Buongiorno. Questo, quello che abbiamo sentito appunto è Febbre da cavallo. Abbiamo sentito la voce stridula, piagnucolante del Pomata Montesano che si inventa, fa rinascere e rimorire questa nonna 1000 volte per poter allontanare il Ventresca e gli altri creditori del sottobosco romano di Capannelle, di Torre di Valle, dei vari ippodromi. Ecco, il debito e il denaro sancisce lo stile dell'uomo e del personaggio. Qui siamo in metà anni 70 e questo sottobosco vive con questa spada di Damocle eterna di cui ha bisogno per determinarsi, questo affanno eterno. Oggi sarebbe, sono dei ludopatici, cioè sono persone che tutti i loro soldi si giocavano ai cavalli, quindi hanno sempre bisogno di denaro. Il protagonista in particolare ha una sorta di debito sessual coniugale con la moglie, anche quella è una maniera comunque per eludere pagamenti. La moglie era convinta di poter investire soldi che in realtà non aveva. Sì, in realtà Mandrake quando perde alle corse poi diventa impotente e quindi si inventa storie per poter allontanare la moglie. La moglie capisce che ha perduto. Intuisce lo stato della sua situazione, appunto. E quindi però questo li determina, li fa esistere come personaggi in questo affanno eterno, è quello che li caratterizza. Questo se ti attacchi in ufficio c'è uno scatto da così a così. Oh, mi sta a coglionà. Io c'ho un centro carni. Se mi attacco questo va la reclami della carne guasta. Ma te lo metti in casa, fai un figurone. Io ce l'ho avuto in salotto per 20 anni, tu non sai quanto mi ha aiutato a me, le serate che mi ha risolto. Perché è anche un argomento di conversazione, sai. Ah, c'è pure chi c'ha il coraggio di parlare di sta crosta. Ma che scherzi? Infatti c'è pure chi dice, se c'hai zinne viola, di che colore ci avrà il culo? Sì, turchese. Aspetta, Walter. Io lunedì devo coprire un assegno, va bene? Di quelli pesanti. Facciamo 10, 8. Ma che stai a dire, Adoni? 4. Me daresti un po' d'ossigeno. Adoni, ma che me lo so là proprio a me? Altro espediente quando proprio se è con l'acqua alla gola, occorre onorare degli impegni, non se ne può fare a meno, e chiedere soldi agli amici e cercare di rifilare agli amici oggetti di valore presunti tali che si hanno per casa, che in realtà poi non hanno il valore a cui che ci si attribuisce, e gli amici come sempre sono pronti a darti una mano. Non sempre, come vediamo in Compagni di scuola, questo è l'88, sono passati 10 anni da Febbre da cavallo, siamo in pieno riflusso e due personaggi che si confrontano sono particolari: un cantante da TV privata con le spalline e la giacca traslucida come Christian De Sica, e un macellaio che invece i soldi li ha fatti da quando hanno finito la scuola insieme e i soldi ce li ha, l'altro è pieno di debiti, pieno di difficoltà, e quindi cerca di vendergli questa crosta, ma appunto viene deriso romanamente. C'è l'straordinario Bernabucci che ha questa risata antica, eterna, che lo seppellisce sotto la polvere. In questo caso era che, diciamo, l'apparente livellamento di stare sullo stesso banco di scuola in realtà di fronte alle prove della vita scompare. Alla fine il macellaio è quello che tiene in mano anche il più brillante, il più scafato, quello che è un personaggio che magari sembra invidiato. In realtà di fronte allo zozzo denaro le categorie sociali si ribaltano nella percezione e nell'accezione che noi abbiamo come più scontata. Quindi in questo caso è la vittoria del macellaio. Chissà perché sempre il macellaio, quando si vuole disprezzare una persona che ha i soldi e si considera erroneamente che non li merita in quanto non appartiene a un censo che debba avere i soldi, cioè quello è un macellaio, è figlio di un macellaio, perché? Anche nella proprietà non è più un furto di Petri, c'era un Tognazzi metafisico nella parte del macellaio, accumulatore di denaro, un po' forse perché i filetti costano tanto, c'è questa vulgata, o questa idea. Anche la scena che citammo nella precedente incontro sulle olive greche, in fondo era un pizzicagno, era sempre un macellaio, quello cos'era? Non era un pizzicagnolo romano, uno che aveva questa bottega, che era il grandissimo Mario Brega. Appunto, il commercio solido garantisce entrate sicure, almeno le garantiva, adesso forse un po' diverso. Guarda come siamo ridotti in questa sorta di snobismo estremamente classista, figlio di bottegai, figlio di macellai. Dico, magari avrei voluto avere io i genitori bottegai e macellai. Il mondo vi è stato dato solo in prestito. Io vi presto il mondo quando ogni tanto lo perdete. Non confondere mai l'insolito con l'impossibile. My lady's story is one of breast amputation. Ma guardate, se un uomo di 53 anni si deve vestire come un deficiente. Il country è tutta la mia vita. Hai una visione angusta della vita, fratello caro. I'm a hole in love, I'm a bride on fire. Qua è cambiato completamente lo scenario, anche se il tema rimane di base quello. Sì, siamo nella Latina del 2006, l'anno del film L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino, quindi un meraviglioso Giacomo Rizzo che fa il sarto come copertura, in realtà fa l'usuraio e a questi amici, a questo amico countryman che è Fabrizio Bentivoglio, ma appunto vi presta il mondo quando ogni tanto ve lo perdete, questa è la frase con cui teorizza la sua attività e racconta una società che cerca di vivere oltre alle apparenze, sulle apparenze in realtà, e quindi magari non ha la sostanza per pagare tutto quello che matrimoni sfarzosi, macchine rutilanti, prese a rate, però l'apparire è fondamentale a costo di stringere la cinghia nel buio angusto di una casa in cui non si è pagata la bolletta elettrica. Lo strozzino è un personaggio d'altri tempi, così rappresentato perlomeno, sempre un personaggio tristissimo e squallido, che aveva un'apparente espressione di essere un benefattore, aiutava le persone, ma in realtà lucrava sui suoi vicini di casa, sulle persone, sugli affetti. E gli strozzini, quelli proprio da commedia, erano persone che avevano una vita anche miserrima alla fine, perché accumulavano i soldi per il desiderio di accumularli, quindi erano vere e proprie sanguisughe. Nelle accezioni contemporanee sembra quasi scomparsa, anche se non è scomparsa l'usura, perché oggi le società finanziarie hanno una parvenza diversa, ci sono questi annunci anche senza bisogno di stipendio fisso, senza garanzie, senza diamo soldi a chiunque per qualunque cosa. Ecco, chi poi va a vedere vede che in realtà il qualunque cosa è qualcosa che corrisponde all'anima, che una volta veniva barattata per cose ben più nobili, come una eterna giovinezza, una giovinezza impropria, o donne, cornucopie, champagne e via dicendo. Oggi 4 soldi per pagare i debiti. Fofo, mi presti 3 milioni? Ti faccio una cambiale a 3 mesi. E chi ce l'ha? Va bene, come non detto. Ci sei cascato, eh? Dì la verità, ci hai creduto? Figurati, come se non ti conoscessi. Proprio a me li viene a fare sti scherzi, buffone! Non hai 3 milioni. Ogni tanto, secondo me, Giuseppe, salutare, sentire alcune scene prese da questo film, perché noi abbiamo, come sempre, la storia in sé crea mitologie, l'idea che noi veniamo da un passato fulgido, gli anni del boom, in cui le persone erano diverse da oggi, l'imprenditoria era sana. Ecco, senti, anche in questo caso Alberto Sordi chiede i soldi all'amico, quello che stava alla festa insieme, e glieli nega naturalmente. Anche lì era abbastanza marcia, l'economia era molto basata sul bluff. Era il 1963, Sordi lo diceva in quegli anni, cioè noi vi avevamo avvisati sul boom, ma voi non ci avete voluto ascoltare, diceva ai suoi spettatori, al suo pubblico. Qui è meravigliosa la scena anche dal punto di vista della cadenza, stanno giocando a tennis e si allontanano, si avvicinano a questa rete, e Sordi passa dal registro supplichevole solito suo alla risata grassa, come ma no, non è vero, non ho debiti, stavo scherzando. Tutto, ecco, un bluff, è perché tutto un bluff continuo. In realtà se l'amico glieli nega deve far finta che non scherzi, perché bisogna comunque apparire felici e inseriti nel boom, anche se poi gli costerà un occhio fuori di metafora, appunto, tutti i debiti che ha. Gli verrà chiesto proprio di togliersi una pupilla e darla a chi avrebbe potuto salvargli questa situazione. A un grosso imprenditore che ce l'aveva bruciato dalla calce viva. Oh, signorina! Oh, ecco! Oh, senta, è maschio. Chico, beh, certo che è maschio, non vede? C'ho la pancia a punta. Signorina, le devo dare una grande notizia. Cioè? Ho riflettuto molto. Ho deciso di riconoscere il bambino. Ma come? Ma come eravamo d'accordo che lei mi avrebbe dato i pippi, i 5 pippi e poi... Io no! Signorina, lei non dovrà più fuggire, non dovrà più nascondersi. Pensi, ho pensato anche a noi. Ah, sì? Lo chiamerò Ugo II, Guardi Leone. Me coglioni. Cioè? No, niente, un altro nome. Qui è ancora più paradossale, qui è un tentativo di estorsione, simulando una fecondazione che mai avvenne, perché mai avvenne ancora penetrazione. Certo, questo è il ritorno di Fantozzi sulla terra, scacciato anche dal paradiso, che si ritrova fra le braccia della tanto agognata signorina Silvani, che appunto spaccia una sorta di pentola infilata sotto il vestito e tagliere, che come gravidanza, e quindi che necessita di denaro Fantozzi. Toziano, che però appunto è uno dei modi, appunto, perché lei è piena di debiti, perché la vita che ha vissuto l'ha portata a indebitarsi. Beh, l'antico ricatto sessuale visto da un altro punto di vista, la donna che seduce l'uomo e poi lo ricatta sul frutto del loro accoppiamento. Una volta si accoppiarono Fantozzi e la Silvani, ti ricordi? Quando sì, lui prese a Capri, la bomba, a Capri, quando lui prese la bomba, sì, e lei infatti è rimasta talmente affasciata, cioè, che mi sono persa in questi anni. Certo. Cioè, Fantozzi Melodie. Ah, certo, cioè, beh, sì, Melodie, Fantozzi Melodie. Quell'esortativo. Una frase che tutti chi non lo ricorda vorremmo sentirci dire. Ci fermiamo un attimo per il traffico, a dopo. Melog. Cronache meridiane. Mi devo un po' di cipria. Sì. L'ho sporcata. No, signore, è un piacere. Scusi. Signora, veniamo al dunque. Io ho bisogno dei soldi. No, non parliamo di soldi. Anch'io se ne ho bisogno. Sì. E tanti. Pensi, c'ho mio marito disoccupato. Oh. E i bambini. Lei ha figli? Io no. Vedete i bambini? Verranno, no? Sono appena 10 anni che sono sposata. Oh. Mi dia tempo, non so mica fiaschi che si abbuffano. C'ho tutto sulle mie spalle. Sì. Povera donna, ho tutto sulle mie spalle. Guardi che spalle. Sì, vedo. Guardi che spalle. Sì, tocchi. No, guardi no, che spalle. No, signora, perché? Ma che fa? Non mi guardi così. Oddio, lei mi fa un senso. Mi fa un senso. Certo, è Giuseppe Sansonna che omnia munda mundis. Oggi una scena del genere, un eventuale remake, sarebbe un transessuale che tenta di ricattare una persona inducendolo in tentazione per poi estorcergli qualcosa. Sì, solo che qui erano appunto sempre in pieni anni 60, in pieni anni del boom, in un'epoca ancestrale in cui Totò, con la sua patafisica, si veste da donna, lui che era un eterosessuale che neanche si poneva il problema ovviamente di... Però spesso si veste da donna. Sì, però lo fa sempre in questo modo appunto asessuale, sopra i sessi, non c'è nessuna, c'è proprio il delirio, c'è la c'è Jarry, c'è la pirotecnia, c'è il tentativo di sedurre un povero Luigi Pavese per non pagargli l'affitto, ma è tutto ipercomico, non c'è nessuna traccia di sensualità in questo, c'è una demolizione anche del concetto stesso di Eros, una puntuale decostruzione. Ma c'è anche una misoginia terribile, perché è la macchietta della donna che si dà per l'affitto è terribile. Certo, no, infatti arriverà poi un Nino Taranto siciliano, marito geloso appunto da cliché, e tutto il gioco dei cliché questo film, come ricorderai, fanno anche Fidel Castro e il suo dignitario, fanno i neri alla Bokassa, alla Mobutu con l'anello al naso, è quasi colonialista se non fosse delirante, se non fosse surrealista come film. Oggi va riletto con molta attenzione, pure il genio di Totò rimane inalterato, però va anche osservato questo. Comunque stamattina, per chi si è messo in ascolto adesso, stiamo parlando dell'escamotage per estorcere denaro, o ancor più visto il quadro della situazione europea legata appunto alla questione greca, di non dare i soldi che si devono. Come eludere comunque un creditore, come trovare scuse, come dilazionare o estinguere un debito che non si vuole naturalmente onorare. Buon appetito, signor Strozzino. Chi voi siete? Io non vi conosco mica. Amici, signor Strozzino. Che vi vogliono avvertire. E che? Voi spingete la gente alla disperazione, ma un nobile decaduto prima di andare in galera può arrivare anche a fare uno sproposito. Ah, ho capito, vi manda i mascetti. Mi volete dire che si vuole ammazzare? Lo dicono tutti, m'ammazzo, poi non si ammazza nessuno. E poi, anche se si ammazza, non porta una sega. Io so le enciclopedie in garanzia, mi rivendo quelle e siamo pari. Vedete, signor Stazzino, non dicevo che si vuole ammazzare, dicevo che vuole ammazzare voi. Oh, il pericolo è il mio mestiere. E poi via, lasciatemi tranquillo, fatemi mangiare in santa pace. Sentite, signor Strozzino, io sono un commerciante, vengo subito al pratico, c'è un ristorante bar. Voi voglio restituite le enciclopedie e noi vi savalla le cambiali, va bene? Lei che c'ha da perdere? È un luminare, è un famoso chirurgo. E quell'altro, quello che è dietro a voi, è un architetto, capo ufficio tecnico del comune. Come vedete siete più che garantito. E se accetto? E che ci guadagno? Senza guadagno la remissione è certa. Se non accettate potete essere certo di qualche calcio di culo. Non presidente, di calci di culo, figuratevi, ci ho fatto il callo. State attento, altri quattrini non ce li sfilate. Era un osso molto più duro di noi. E alla fine ci toccò impegnarci per iscritto a fornirgli un certo numero di prestazioni in natura, secondo le nostre possibilità e professione. Così salvammo il Mascetti, ma cominciò per noi una vita di persecuzioni e di... Ecco, qua riappare e riemerge, non poteva non riemergere, la figura dello Strozzino, un'altra delle sue più classiche iconografie. Amici miei, vogliono salvare il povero Conte Mascetti, sarà impegnato anche lui per fare una vita al di sopra delle sue possibilità, e in qualche maniera compensare lo Strozzino. La faccia di Paolo Stoppa segnata, romana, anche se qui fa un po' il toscano, ma poi la cadenza romana emerge sempre. È ancora più spregevole, diciamo, in questo accento forzato. Sì, è vero, e anche questo cappotto con questo colletto da avvoltoio che acuisce il suo aspetto da rapace, appunto da mangiatore di carogne, sta sulle spalle di questo appunto aristocratico che vive sopra le righe come il Conte Mascetti, che Tognazzi incarna benissimo. C'è questo rapporto fra usura e antica romanità ancestrale. Lo stesso Seneca fu arrestato per circonvenzione di vecchi incapaci per usura, cioè come un legame antico. Dicevamo prima del Tognazzi romano che faceva il macellaio e appunto è avido di denaro. C'è questa dimensione che lega, che fa pagare, fa scontare in vita i peccatori, chi vive al di sopra delle proprie possibilità. Beh, sai, l'idea di Roma ladrona, che è uno degli slogan leghisti degli anni 90, diciamo così, affonda le radici su laddove c'è un potere centrale, laddove si muove la politica, sicuramente qualcuno ci mangia sopra. Poi questo a caduta viene spalmato anche negli ipotetici emblemi che possono abitare una città, quindi sta anche lo Stoppa Strozzino, senz'altro. Francesca è sola, con una figlia e senza un soldo. Ma che altro diavolo mi possono portar via? La casa dove abiti, no, ma tutto il resto sì. Ma è bellissima. Una riffa? Ma in che senso? Nel senso di una riffa, una lotteria. Il mio unico capitale ce l'ho fra le gambe ed è un capitale che si logora in fretta, perciò se devo venderlo, devo farlo al prezzo più alto. Francesca, aspettano 500 milioni l'anno. Per quei 4 anni io apparterrò a chi vince la riffa. Non chiederò nulla e farò tutto quello che la migliore delle amanti sa fare. Tutto. Allora mi consideri fin da adesso nel numero dei suoi giocatori. Quante probabilità si avrebbero di vincere? 1 su 20. Mi sembra onesto. Guarda che la prossima volta, 1 su 20, mi bacerai. Francesca, tutti quelli che si sono iscritti alla riffa erano amici di tuo marito. Ogni riffa prevede un premio. In questo caso, qual è il premio? Ma sono io il premio. Ah, dimenticavo. Le iscrizioni sono aperte. Ecco, questo è un escamotage disperato, ma non mi sembra da come la sta prendendo la povera vedova. È molto disperato. Il cambio è il più scellerato, ma è il primo che viene chiesto sempre dall'avvoltoio. È tipico colui che aiuta le donne in difficoltà, soprattutto se vedove, soprattutto se sole. Naturalmente la moneta di scambio è l'infame, turpe ricatto fisico. E questa è l'epifania folgorante di Monica Bellucci, che arriva in una Bari del 1991 ritratta da Laudadio, che anticipa, se vogliamo, la Bari tarantiniana delle ultime cronache, con questa borghesia molto corrotta e anche piena, appunto, di pruriti inconfessabili, e quindi posta in palio se stessa la Bellucci per pagare i debiti. Tutti di gli amici del marito vanno lì. Esatto, sono loro che parteciperanno a questa lotteria per ottenere il corpo agognato della Bellucci. Ecco, qui è uno spaccato, diciamo, un po' meccanico nella sua logica, nella sceneggiatura, però l'idea non era malaccio. Ecco. Ma che la Bellucci sia proprio questo mostro di recitazione. Doppiata, qui è doppiata, infatti sì. non ha l'accento, appunto, di Città di Castello e zone limitrofe. E qui ha un accento e ha una recitazione anche più credibile. Poi consideriamo che nel 91 era proprio agli albori, qualcosina ha imparato in questi 25 anni dal punto di vista della recitazione. Mi manda Picone, prego, accomodatevi, molto gentile, datevi a corso che qua si scivola, uno con niente si trova a male. Attenzione, non mi spuccate la giacchetta. Opla. Prego, prego, eccomi qua, tagliate il cancò, un vero piacere, un momento e sono da me, non vi preoccupate. Ah, guarda, sta scritto tutto qua. Sì, sì. Don Armando Bellucci, 3,5. E questa è l'agenda di Picone. Va bene. Perciò, tutto quello che gli dovete dare a lui, me lo potete dare pure a me, perché è la stessa cosa. Ah, sì? È straordinario come un film che poi in fondo non ha lasciato traccia nella memoria collettiva, però la frase "mi manda Picone" è rimasta ancora. Chi ti manda, mi manda Picone. Chi lo manda Picone. Era azzeccata come frase. Era molto azzeccata perché, vabbè, questo lo sappiamo tutti quanti, in Italia essere raccomandati, essere associati a qualcuno è fondamentale in ogni contesto. Però qui, nello specifico, c'è un Giancarlo Giannini che faccendiere piccolissimo che vive di truffe, con le scarpe scompagnate, appunto, una scarpa e un'altra, senza una povertà estrema, però entra in possesso di questa agenda, di questo misterioso operaio che si è dato fuoco, e quindi confonde, e qui c'è l'equivoco, il debito con il credito, e prende un pugno in faccia da un apparente debitore, in realtà creditore, di Picone. Abbiamo dato qualche breve e lampante escamotage, ma non credo che chi ci ascolta non li conoscesse, e ne conoscesse addirittura anche di ben più infami, ben più meliflui, di ben più efficaci, per non pagare mai a chi ci chiede del denaro, che noi naturalmente dobbiamo. Grazie, Franzon.